24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Raffaella Calandra, bentrovati a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. In primo piano la crisi tra Turchia e Siria, la preoccupazione della BCE sull'incertezza nell'Eurozona e l'allarme sui fondi per l'Erasmus. In apertura, dunque, andiamo ad Ankara, dove il Parlamento ha dato il via libera ad operazioni militari in Siria dopo il lancio di colpi di mortaio da parte dell'esercito di Damasco su un villaggio turco. Una scelta questa condannata con fermezza dall'Unione Europea, che attraverso la rappresentante per gli affari esteri, Catherine Ashton, esorta le parti a dare prova di contegno. Il suo portavoce, Michael Mann, va oltre. Assad dice: deve andarsene. Ankara ha ricevuto le scuse del governo siriano per il colpo di mortaio che ieri ha ucciso 5 persone, tra cui un bambino, e ne ha ferite 13 in un villaggio di frontiera turco. Poco prima il Parlamento di Ankara aveva approvato la mozione presentata dal premier Erdogan di autorizzare per un anno possibili operazioni militari turche in Siria. Non è una mozione per la guerra, ma un provvedimento con uno scopo dissuasivo, aveva garantito il vice premier turco Atalay, dopo che all'alba l'artiglieria turca aveva colpito il distretto siriano di Tel Abyad, da dove, secondo Ankara, è partito il colpo di mortaio. Forte della solidarietà ricevuta dal comando della NATO, la Turchia aspetta ora il giudizio dell'ONU. I membri del Consiglio di sicurezza stanno discutendo una bozza di dichiarazione di condanna dell'attacco siriano di ieri, un episodio, sottolinea l'ONU, che fornisce un'ulteriore dimostrazione che la crisi siriana si sta riversando in modo allarmante negli stati vicini. L'Osservatorio siriano per i diritti umani ha intanto reso noto che nel corso della notte almeno 5 soldati di Damasco sono morti e 15 sono rimasti feriti nei bombardamenti condotti dall'aviazione turca. Durissimo anche il bilancio dovuto agli scontri interni nel paese, 25 persone morte oggi, 236 ieri, tra cui 116 civili. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alle notizie economiche. Il governatore della Banca Centrale Europea lancia l'allarme sulla crescita dell'Eurozona. C'è incertezza, ammette Mario Draghi, nel giorno in cui la BCE lascia invariati i tassi. OMTs. Will enable us to provide. Tocca ai governi di Eurolandia decidere sulle eventuali richieste di salvataggio. La BCE ha già messo in piedi un meccanismo di difesa. Mario Draghi rilancia la palla nel campo degli esecutivi nazionali dopo l'estenuante tira e molla spagnolo sullo scudo antispread e quasi a scrollarsi di dosso ogni responsabilità ulteriore chiosa. La BCE ha fatto davvero tutto il possibile. Il programma di acquisto bond crea un ambiente favorevole alle riforme. Draghi ha infine precisato che le condizioni per gli aiuti ai paesi che ricorreranno al fondo salvastati non devono essere necessariamente punitive. Dalla Slovenia la BCE mantiene i tassi di interesse invariati allo 0,75%, confermando un quadro di crescita debole per l'Eurozona, anche a causa delle forti incertezze. Draghi non esclude un ulteriore taglio dei tassi prima di passare ai giudizi sui singoli paesi. L'Italia sta vedendo considerevoli afflussi di depositi bancari. La Spagna ha completato quasi il 90% del suo programma di finanziamento. Proprio a proposito della Spagna, Draghi osserva come Madrid abbia realizzato progressi significativi sul consolidamento di bilancio, anche se restano sfide importanti. Il presidente della BCE esclude un allungamento delle scadenze sul debito greco ancora nelle mani di Francoforte, equivarrebbe al finanziamento monetario. Taglia corto. Da New York il Fondo Monetario Internazionale ha giudicato positiva la decisione della BCE di mantenere i tassi a un livello basso. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sentiamo come hanno reagito le borse europee. Ancora una seduta in colore per le borse europee che ieri hanno navigato tutta la giornata a ridosso della parità in assenza di nuove iniziative da parte della BCE. Quest'ultima ha tenuto i tassi fermi allo 0,75%, ribadendo le decisioni prese nella riunione scorsa e rimettendo ai governi dell'Eurozona, in particolare la Spagna, la responsabilità di agire sul fronte del risanamento. Ora l'attesa è tutta per i dati sul lavoro USA di settembre, che verranno diffusi questo pomeriggio. A Milano, dove il FTSE MIB chiude a meno 0,15%, brillano TOZ più 2,3% e Finmeccanica più 2%, con il mercato che scommette sempre più sulla cessione del 55% di Ansaldo Energia. I dati record sulle vendite USA premiano nuovamente Fiat più 2,1% e la controllante Exor più 1,4%, mentre tutte le principali banche recuperano terreno, a partire da Intesa San Paolo più 1%, dopo la promozione nei test sulla solidità patrimoniale effettuati dall'EBA. In coda listino invece Salvatore Ferragamo meno 1,9% e Fiat Industrial meno 2%, penalizzata dalle indiscrezioni su un rallentamento dell'iter di fusione con l'americana CNH. Ceo Condina da Radio Corp per Radio 24 e Sole 24 Ore. Andiamo in Spagna, progettava una strage come al Columbine. Il suo obiettivo era mettere una bomba nell'Ateneo delle Baleari. La polizia ha arrestato ieri un ventenne e sono stati anche sequestrati 140 kg di esplosivo e il diario del ragazzo. Allarme finanziamenti per l'Erasmus. La Commissione europea conferma che sono finiti i soldi anche per il programma di scambio degli studenti. Il Fondo Sociale Europeo non ha più un euro. Questa è la denuncia fatta ieri dal presidente della Commissione Bilancio del Parlamento Europeo, Alain Lamassoure, alla quale ha ribattuto Patrizio Fiorilli, portavoce del commissario al bilancio Janusz Lewandowski, spiegando che non è affatto una sorpresa, aggiungendo poi che già a novembre 2011 era chiaro che non ci sarebbero stati abbastanza soldi. Il 23 ottobre il commissario al bilancio Janusz Lewandowski presenterà una proposta di bilancio correttivo. Il Fondo Sociale Europeo è nato nel 1957 col Trattato di Roma e fa parte dei fondi strutturali dell'Unione Europea. Nell'attuale periodo di finanziamento 2007-2013, regioni e stati membri hanno a disposizione 75 miliardi di euro per raggiungere gli obiettivi prefissati, che vanno dall'innovazione sul posto di lavoro all'apprendimento permanente alla mobilità dei lavoratori. Luisa Perona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Patrizio Fiorilli, portavoce del commissario europeo al bilancio Lewandowski. Il Fondo Sociale veramente è un fondo per la promozione della crescita dell'economia, contro la disoccupazione, e vediamo che oggi è quasi vuoto. Se si taglia sul bilancio del Fondo Sociale, di conseguenza si taglia sui programmi Erasmus, ricerca e innovazione? Non capiamo veramente l'atteggiamento degli Stati membri, del Parlamento. Nella nostra proposta per il bilancio 2013 vogliono tagliare 5 miliardi dove? Esattamente crescita, scienza, educazione, ricerca, gioventù. Un po' lo capiamo che c'è la crisi e che gli Stati membri hanno bisogno di trovare soldi dovunque, solo che se tagliano in quel bilancio fanno male alle loro regioni, loro comuni, loro studenti. Parliamo ora di nucleare. Le centrali europee superano gli stress test. Nessuna centrale deve essere spenta, ha annunciato il commissario per l'energia Günther Oettinger a conclusione delle prove fatte sulle 145 centrali nucleari sul territorio dell'Unione dopo l'incidente di Fukushima in Giappone. Più donne nelle aziende, 40% di quote rosa per le compagnie quotate. E questa è la proposta della commissaria alla giustizia Viviane Reding, che punta ad avere almeno quasi la metà di donne nei CDA delle aziende entro il 2020. Molti i contrari, tra cui colleghe donne come le commissarie Ashton e Malmström, ma la proposta della Reding conta già sull'appoggio, tra gli altri, del vicepresidente Tajani. Infine parliamo di evasione. Il nero dilaga anche nel privato, dalle babysitter alle ripetizioni. Circa il 60% delle prestazioni che ruotano intorno alla famiglia resta sommerso. È il quadro dell'ultimo rapporto Eures sull'evasione in Italia. Il presidente Fabio Piacenti al microfono di Anna Marino. L'evasione fiscale subita dalle famiglie è un elemento di grande frustrazione. Da questa frustrazione nasce una reazione molto forte, per cui una richiesta che coinvolge il 70% delle famiglie di trasformare l'evasione fiscale in reato penale, ma anche valori ancora più alti, vicino all'80%, di famiglie favorevoli al fatto di togliere le licenze e le abilitazioni ai negozianti e ai professionisti che non rilasciano scontrino fattura ricevuta. C'è, io credo, quel consenso sociale di cui molto oggi si parla e anche la Corte dei Conti l'ha sottolineato come elemento fondamentale per portare a compimento un contrasto efficace all'evasione fiscale. E secondo i vostri dati l'azione del governo come vista? L'azione è giudicata inefficace proprio perché io credo che la famiglia non sia più disponibile a tollerare, diciamo, il famoso ricatto del professionista con il doppio prezzo, uno con fattura e uno senza. 24 ore in Europa termina qui. Un saluto a tutti voi da Raffaella Calandra. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.